Il punto di Stefano Folli. Fine d'anno non facile per il Partito Democratico. Le primarie di San Silvestro sono un appuntamento necessario per scegliere i candidati, ma anche per rafforzare l'immagine pubblica del partito di Bersani. Ed esse si intrecciano con il tema politico destinato a dominare le prossime settimane, il confronto con la lista Monti, che ancora non esiste e tuttavia costituisce già il tema centrale della campagna elettorale. Insomma, un centro-sinistra e un centro-montiano che dopo le elezioni dovranno collaborare insieme, ma che oggi sono competitori, fortemente competitori. Un'agenda Monti che è un polo di attrazione per una serie di personaggi che appartengono all'ala moderata del PD, un cuneo nella linea di Bersani a cui si chiede di scegliere fra le posizioni di Vendola o Fassina, che del segretario è uno stretto collaboratore, e quelle di Piero Ichino, che dal PD sta uscendo proprio per andare con Monti. Questi sono i punti in discussione oggi, in un quadro ancora molto confuso, ma c'è una sfida in atto che coinvolge il versante più europeista del PD e non c'è un vincitore sicuro.